Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Auguri a tutti voi in contatto con il Groove Master Studio di Radio 24. Auguri, buona Pasqua da Gegè Telesforo e buona Pasqua a Francesco Tromba. Tanti auguri a tutti. Allora, come affrontare musicalmente questa puntata? Caro Francesco, se sei d'accordo con me, io vorrei dedicare questo soundcheck nella giornata di Pasqua a un mio grande amico, ma soprattutto uno dei personaggi più importanti della storia della musica degli ultimi 50 anni. Questo signore si chiamava Tommy Lee Puma, forse il producer discografico che più di altri ha cambiato anche la metodologia nella produzione discografica. Questo signore si chiamava, come dicevo, Tommy Lee Puma, e esattamente un mese fa, quando è successo? Il 13 di marzo, credo, no? Sì, il 13 di marzo. Quindi quasi poco più di un mese, il 13 di marzo, appena sveglio, leggo questo messaggio arrivato nella mia casella di posta elettronica alle 4 e 8 minuti del mattino da parte di Ben Sidran, che mi dice: Gege, our great friend Tommy passed away this evening, talk to you soon. Il nostro grande amico Tommy Lee Puma è volato in cielo questa notte. Sì, è stata un'altra notizia terribile per me, ma per tutti gli amici, perché Francesco, io ho avuto l'onore di conoscere Tommy Lee Puma, di averlo ospite a casa ormai tanti anni fa, però non ci siamo mai persi di vista e potevo vantare anche questa amicizia. Tra l'altro purtroppo non hai fatto in tempo a premiarlo, perché mi raccontavi anche di un'iniziativa che stavi organizzando in Sicilia, perché lui ovviamente è originario il cognome d'altronde lo dimostra. Sì, sì, origini siciliane. La famiglia ha origini siciliane e tra l'altro credo che presto sarà pubblicato da parte di Ben Sidran, che oltre a essere quel gran musicista che è, produttore discografico, è anche un grandissimo autore. E ha scritto la biografia di Tommy Lee Puma, autorizzata, e credo che prestissimo, anche per l'evento luttuoso, avremo la possibilità tutti noi di scoprire meglio la vita e il carattere di questo personaggio. Sì, stavamo tentando di organizzare un premio per gli 80 anni di Tommy Lee Puma con Ignazio Garcia del Brass Group di Palermo e non ci siamo riusciti, non ce l'abbiamo fatta. Ha anticipato con il suo swing gli eventi Tommy Lee Puma, che oggi vogliamo ricordare nel soundcheck di questa domenica di Pasqua. Eccellente producer, iniziato prestissimo la sua attività. Devo dire che negli Stati Uniti viveva, faceva il barbiere. Lo sai, no? Sì, la sai, lui la ha iniziato frequentando la scuola di barberia, perché suo padre, se non sbaglio, era barbiere. Era barbiere, quindi frequentava la barberia del padre. Di fronte proprio alla barberia c'era una piccola etichetta discografica. Eh sì, lui era un grande appassionato di musica, perché quando era infortunato aveva avuto un problema di salute, aveva iniziato ad ascoltare la radio e i suoi artisti preferiti all'epoca erano Nat King Cole, ma poi tutti i sassofonisti come Coleman Hawkins, i sassofonisti dell'epoca, e lui iniziò a suonare il sassofono proprio per questo motivo, perché era lo strumento che gli piaceva di più. Sì, gli piaceva molto il sassofono, però capì prestissimo che non poteva diventare un musicista, ma voleva avere un rapporto stretto con la musica. E gli piaceva quell'ambiente discografico che frequentava la barberia del padre, e quindi di lì a poco riuscì ad avere il primo ingaggio in questa etichetta discografica da magazziniere. Sì, perché poi però è arrivato, ha fatto tantissima strada, ovviamente. Beh, la sua carriera lo dimostra. Noi lo sappiamo benissimo, e questa sera in qualche modo cercheremo di rendergli il giusto tributo. Non riusciremo a raccontare tutto, perché quanti dischi avrà prodotto Tommy Lee Puma? Fai conto, ne faceva almeno quasi 20 all'anno, mamma di media, mia, 15-20. Che genio! Tommy Lee Puma al soundcheck di Radio 24, ne parleremo ascoltando la musica che lui ha prodotto. E fra gli artisti che ha prodotto Tommy Lee Lili Puma, ce n'è uno che non è mai diventato una leggenda come tutti gli altri, anche qui da noi, però sinonimo di grande qualità, di grande classe. Nel 1976 viene pubblicato per la produzione di Tommy Lili Puma The Art of Tea, con la voce di Michael Franks, e il brano si intitola Popsicle Toes. And when God gave our rhythm, he sure was good to you. You can add, subtract, multiply and divide by two. I know today's your birthday, and I did not buy no rose, but I wrote this song instead, and I call it Popsicle Toes. Popsicle Toes. Popsicle toes are always froze. Popsicle toes. You're so brave to expose all those popsicle toes. Must have been this Pennsylvania with all this polka too. How come you always load your Pentax when I'm in the nude? We ought to have a birthday party, and you can wear your birthday clothes. We can hit the floor and go explore those popsicle toes. E in questa domenica di Pasqua vogliamo rendere il tributo meritato al più grande producer discografico di tutti i tempi, il nostro amico Tommy Lili Puma, scomparso poco più di un mese fa. Tommy Lili Puma, una figura leggendaria, per quale motivo secondo te, Francesco? Beh, tutto quello che toccava si trasformava in oro, aveva un'attenzione particolare per tutto quello che faceva, per tutta la musica che produceva. Sì, nei dettagli, tant'è vero che mi ha raccontato Ben Sidran che quando doveva produrre un album, insomma sto parlando quando era più giovane, non negli ultimi anni, ma quando era giovane si trasferiva, faceva un vero e proprio trasloco da casa, si portava la branda e sceglieva gli studi di registrazione anche per questo motivo. Dovevano avere una stanza dove lui poteva vivere, dormire, mangiare. Senz'altro frequentava lo studio di registrazione più dell'artista stesso. Doveva avere il controllo pieno di tutta la situazione. Controllo pieno, ma poi una collaborazione stretta con l'artista. Ecco perché lui ha inventato la figura contemporanea del producer, perché non si limitava a investire il budget per la produzione, ma voleva creare un'opera insieme all'artista, consigliava il repertorio, consigliava i musicisti, il tipo di suono, il tipo di ambientazione sonora che doveva vestire quel determinato artista. E fra gli artisti toccati dal re Mida della discografia c'è anche George Benson. Tra l'altro si dice che Tommy Lili Puma avesse il miglior orecchio in tutta l'industria discografica a livello proprio di produttore. Aveva un orecchio e un approccio quasi da musicista a livello proprio della produzione, del controllo vero e proprio della produzione. Fra i capolavori anche questo, Weekend in LA, George Benson al Soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Certamente la passione per la musica di Tommy Lee Puma partiva dal jazz. Francesco ce lo ha detto, voleva fare da grande sassofonista e invece fortunatamente per tutti noi ha fatto di più, no? Perché magari come sassofonista avrebbe realizzato i suoi dischi, ma non dei capolavori assoluti della discografia. Quanti album ha registrato Tommy Lee Puma? Fai conto che il primo album è del 66 ed è arrivato praticamente, uscirà anche un album in cui lui ha la produzione postuma del disco di Diana Krall, del nuovo disco, sì, che uscirà a maggio. Incalcolabile gli album prodotti da Tommy Lee Puma, centinaia per questo formidabile personaggio nato a Cleveland il 5 luglio del 1936, scomparso a New York il 13 marzo del 2017. Come puoi vedere qui c'è un quadretto, tieni. Guarda che c'è scritto qui. Sta attaccato su quella parete. L'avevi notato? È attaccato su questa parete del Groovemaster Studio da sempre. era un po' nascosto perché sta dietro in una attaccapani. Va bene, ma no, ti prego, leggi. Leggo, allora. Dear Gege, I just got back to New York and I'm finally settling back into the swing of things. Into the swing of things. Senti come scrive già. Mm. I want to thank you for your kind hospitality while I was in Rome and hope to see you or speak to you soon. Warm regards, Tommy Lee Puma. Eccoci qua, ecco. Perché Tommy Lee Puma venne a Roma tanti anni fa, che la data di questo, di questa lettera? 1993. Venne a Roma con Ben Sidran. Ci siamo divertiti tantissimo, io avevo una bella casa al centro di Roma, abbiamo ascoltato tanta musica, siamo andati in giro per ristoranti, offriva sempre Tommy Lee Puma, prendeva le bottiglie di vino migliori, grande appassionato e conoscitore di vini, tra l'altro avevo una bella cantina lì a New York. Fatto sta, ci sono due episodi chiave. Il primo è che mi chiese di accompagnarlo a un appuntamento con un discografico italiano che gli voleva proporre la produzione del nuovo album, sto parlando quindi del 93, di Pino Daniele, e questo discografico era Luciano Linzi, che poi è il nostro amico direttore della Casa del Jazz e anche collaboratore di Umbria Jazz, e mi sono ritrovato lì. Linzi rimase a bocca aperta quando mi vide con Tommy Lee Puma, giustamente, che ci fa questo? Sorpresa. come stai? Fatto sta che Tommy Lee Puma poi a cena mi disse: Gege, per favore informa Luciano Linzi, sono contento della proposta ma non posso produrre Pino Daniele perché ho altre cose importanti da fare a New York. Però pensate un po' che forse ci siamo persi una grande chance, no? Immagini un disco di Pino Daniele che in quel periodo stava proprio a palla come notorietà, come vena creativa, prodotto da Tommy Lee Puma. Pensa che meraviglia. Avrebbe avuto maggior successo di quanto già ne ha avuto tantissimo Pino Daniele. È una grande intuizione di Luciano Linzi. Luciano, non so se ricordi, se sei in ascolto, se ricordi quella sera all'Excelsior di Roma. Poi l'altro episodio, che con Tommy Lee Puma e Ben Sidran andammo in studio di registrazione dove c'era il mio amico Renzo Arbore, e Tommy rimase a bocca aperta perché Renzo era proprio chiuso nel gabbiotto dello studio, quello dove si fanno i canti con il vetro, con un cane, e aizzava questo cane che doveva abbaiare. Immagina, il più grande produttore discografico vede un artista italiano con il cane, dice proprio Italia, che cos'è? Film grottesco. Renzo stava registrando uno dei suoi best seller con l'orchestra italiana, un brano dove proprio poi c'era proprio il cane che abbaiava. Fatto sta che Renzo si fermò, ci venne a salutare, e Tommy chiese a Renzo: scusa Renzo, ma perché non campioni, pensa, nel 93, non campioni il cane che abbaia e poi lo metti lì dove ti serve? Renzo però, altro genio, ci pensò un po' e fece: Tommy, perché la registrazione deve essere dal vivo. Meraviglioso. Tommy Lee Puma, grande appassionato di jazz, il brano che abbiamo ascoltato era B Minor Waltz di Bill Evans, quindi immaginate un produttore che è passato da George Benson al Jarreau, ma ha prodotto anche un pianista come Bill Evans, e poi un album importantissimo per il jazz contemporaneo come Tutu di Miles Davis con Marcus Miller. Sì, era il 1986, quindi mette in contatto praticamente due generazioni diverse, perché appunto è l'esordio vero e proprio di Marcus Miller, potremmo dire, nel mondo dei grandi musicisti, nel mondo dei grandi del jazz. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Unforgettable too. Ma che intuizione! Solo un genio della discografia come Tommy Lee Puma poteva prevedere un successo planetario, ovvero Natalie Cole in Unforgettable, uno dei più grandi successi di suo padre Nat King Cole, riproposto dalla voce della figlia con il papà insieme. La voce del papà, recuperata dai nastri originali, è, ma io ricordo benissimo il video con Natalie Cole che cantava con dietro sul grande schermo la faccia del papà che cantava Unforgettable. Che emozione, sempre per un'intuizione di Tommy Lee Puma. Eh sì, d'altronde da uno che ha venduto più di 75 milioni di album nella sua carriera non puoi che aspettarti delle cose geniali, cioè, per dire, comunque ha messo a contatto, è stato l'idolo di intere generazioni di musicisti ma anche di appassionati di musica, perché comunque ha prodotto da Barbara Streisand, per andare sul settore un po' più pop, a Miles Davis, come dicevamo, George Benson, Al Jarreau, Anita Baker, Natalie Cole, Dave Longhair, gli Yellow Jackets. Sì, tutto il periodo fusion, gli artisti di quel periodo, certo. Sì, ma anche Paul McCartney, Ben Sidran, di cui era grande amico, come ricordavi tu, i Crusaders, Joe Sample, Randy Crawford, Dr. John, per arrivare poi a quella che è stata una sua, diciamo, creatura che gli ha dato tantissime soddisfazioni, Diana Krall. Ecco, e infatti chiudiamo con Diana Krall, che fu scovata da Tommy Lee Puma, capì subito il talento di questa bravissima cantante pianista. Io l'avevo vista qualche anno prima a Umbria Jazz, quando stava proprio nascendo, come pianista. Pagnotta la mise in un clubino a suonare in un ristorante. Qualche anno dopo ce la siamo ritrovata, per colpa di Tommy Lee Puma, fra virgolette, su un grande palco accompagnata da una big band strepitosa. E tra l'altro questa... con lei anche ha lavorato fino alla fine, perché il suo prossimo disco è sempre prodotto da Tommy Lee Puma, che uscirà adesso a maggio, si intitola Turn Up to the Quiet. Allora, augurandovi ancora buona Pasqua, io vorrei ringraziare Tommy Lee Puma, che senz'altro ci sta ascoltando, per tutto quello che ha fatto, e vi lascio con una canzone di Burt Bacharach intitolata The Look of Love. Mi sembra proprio il brano ideale per chiudere questa dedica del Soundcheck a Tommy Lee Puma. La voce è quella di Diana Krall, la produzione è di Tommy Lee Puma. Grazie a Francesco Tromba, buona serata a tutti, ancora auguri da Gigi Telesforo. Buona Pasqua.